Ciao a tutte e tutti, e comincia adesso, come ogni settimana, la trasmissione Uru di musica africana e qualche notizia. Stasera parliamo di uno stato che non abbiamo, di cui non abbiamo mai dato pezzi, però gli abbiamo praticamente girato tutto intorno, e cioè della Costa d'Avorio. Sì, Costa d'Avorio con capitale Abidjan, e c'è da considerare appunto per capire anche perché questa ricca produzione musicale, questa ricca produzione di vinile proprio nel periodo tra gli anni 60-70, che è il periodo appunto che tratteremo in questa trasmissione. E questo perché per 30 anni la Costa d'Avorio è stato il paese più ricco da un punto di vista economico dell'Africa occidentale, specialmente per la produzione e l'esportazione del cacao. E la capitale economica, appunto, Abidjan, la più moderna e attrezzata della regione. E quindi tutti gli artisti maliani, guineani, burkinabè, nigeriani, senegalesi, gambiani, ciandiani, togolesi, ghanesi, che potevano e che appunto sono le regioni, i paesi di cui abbiamo dato i suoni e le notizie nelle in diverse trasmissioni precedenti di Uru, e appunto tutti questi artisti provenienti da questi paesi, se potevano, sono andati ad Abidjan perché era ad incidere, perché era appunto la Mecca, e quindi i musicisti urbani dell'Africa occidentale, attratti anche dall'intensità della vita notturna, serate più redditizie da un punto di vista economico, anche se chiaramente parliamo di cachet, atti solo, diciamo, a sostentamento. C'era appunto questa vita notturna su cui spiccavano questi maquis, questi ristoranti, e conseguentemente, essendoci tutti questi posti atti alla musica dal vivo, c'erano anche diverse e le più avanzate, almeno dal punto di vista dell'attrezzatura, degli studi di registrazione. E conseguentemente tanti degli interpreti delle regioni di tutti i paesi che si affacciano sul Golfo di Guinea si trasferivano a Abidjan ad incidere. E questo è anche il motivo per cui, nonostante si parli appunto del suono ivoriano, questa trasmissione si è incentrata sul suono ivoriano negli anni 70-80, diversi musicisti che proponiamo non sono di nascita ivoriani, ma sono, diciamo, da un punto di vista della loro carriera musicale, ivoriani a tutti gli effetti. E c'è anche da considerare che abbiamo attinto, diciamo così, al lavoro, in alcuni casi al lavoro dell'Hot Casa Record, la prima volta che menzioniamo un'etichetta discografica, proprio perché è un'etichetta discografica indipendente con sede a Parigi e che è composta da pochissime persone che sono andate a scavare proprio in quelli che sono i magazzini. Ci sono delle foto, i magazzini che ancora hanno al loro interno tutti migliaia e migliaia di 45 giri incisi ad Abidjan, e scavando, come dicono proprio loro, digging, hanno riportato alla luce e poi reinciso sempre su vinile, che per l'Hot Casa Record è una, come dire, è proprio un principio, lo dicono loro stessi: cerchiamo sempre di stampare i nostri rilasci su vinile da 7 pollici o LP, e di avere una firma delle opere d'arte originale. E quindi, ecco, suoni dalla Costa d'Avorio, cantanti, nonostante appunto siano pezzi incisi in Costa d'Avorio ad Abidjan, cantanti anche nigeriani, Benin, insomma, e come dice l'Hot Casa Record, un suo principio è quello di stampare sempre su vinile da 7 pollici o LP, e dell'altro di cercare di promuovere il classico soul con contenuti sociali. Sentiamo quindi il primo pezzo, parliamo del musicista Pierre Antoine, il cui vero nome è Aouin Goran Marcel, nato nel 1951 a Bouissou, città situata a 117 km da Abidjan, nella parte sud-est della Costa d'Avorio, praticamente molto vicina al confine del Ghana. è uno studente, ha poi lavorato come apprendista presso la Renault, la famosa società francese di macchine, ad Abidjan, e ha cominciato ad ascoltare musica appunto nei maquis e quindi ha deciso di diventare un cantante. Ha formato vari gruppi e con per esempio i Jinarū, i New Pop System, con pochi altri amici, i Fetici. Il suo nome, Pierre Antoine, è un omaggio diretto all'artista Antoine, che amava indossare giacca e capelli lunghi. La sua carriera è iniziata nel 72 in un bar, appunto, in un locale della famosa area di Abidjan chiamata Jamé. Ha suonato con vari gruppi, poi ha fatto anche tournée in Ghana, Burkina Faso, Benin, Mali, eccetera. Nel 77 si è stabilito in Ghana e in questo periodo si nota anche il cambiamento musicale di questo artista. Si è avvicinato molto all'afrobeat e alla scena panafricana. Dopo, negli anni 80, invece è tornato a melodie ivoriane più tradizionali. Pezzo abbastanza lungo, dura circa 12 minuti, quindi ascoltiamo Pierre Antoine, Ye Man Nun. Thank you. Yeah, Del Congo, lo sfruttamento delle foreste della Repubblica Democratica del Congo è fuori controllo. A trarne maggiori vantaggi è la Nord Sud Timber, compagnia europea che da sola gestisce il 60% del mercato internazionale di legname congolese, operando illegalmente sul 90% delle sue concessioni. Ma oltre alla Nord Sud Timber, l'altra pesante responsabilità è l'Agenzia Francese per lo Sviluppo, che è uno dei principali sostenitori dell'espansione del taglio industriale del legname nel paese. E vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Wombat in streaming su wombat.noblogs.org. Nello stesso sito potete trovare anche i podcast di tutte le trasmissioni passate. Vi ricordo anche il profilo Twitter di Radio Wombat, che è Radio Wombat Fi. Vi ricordo anche che Uru ha un proprio profilo Twitter, quindi se siete interessati a seguirci è uru-rw. E vi ricordo anche che Uru ha due repliche, che sono la domenica sera alle 23 e il lunedì mattina alle 8:30. Passiamo al prossimo artista, e cioè Okoi Seka Tanase, che ha iniziato la carriera intorno al 1964 con Jimmy Jacinth, che abbiamo già ascoltato in una trasmissione passata, nel gruppo Anoman Brute Felix, chiamato Ivoiris Band, e anche suonato con le sorelle Komoe, e ha creato la Combo Jets Band. Cantante di origini Atie, faceva parte del Audiorama con membri che venivano da altri diversi gruppi. Dopo, nel 72, creò i Grand Colombias de Peuple, e con questi poi ha seguito la carriera. Era considerato il maestro del ritmo Ako e Akpongo. Nell'area appunto di Atie, nel 76, colpito dalla musica di Sonny Okosun, che anche lui abbiamo ascoltato in trasmissioni passate, ha deciso di creare un suo proprio ritmo, Ikete Rock Sound. Dopo aver acquistato nuove attrezzature in Nigeria, ha registrato con i Gran Colombias do Popolo i Owe Gone. Da questo album vi facciamo ascoltare la canzone omonima, Me Owe Gone. Thank you. notizia, la popolazione della specie a rischio di estinzione dei gorilla di montagna ha superato per la prima volta i 1000 esemplari. Questo animale vive solo nelle foreste delle regioni montuose dell'est del Congo, nel nord del Ruanda e nel sud-ovest dell'Uganda. Appunto, ha superato per la prima volta i 1000 esemplari. Secondo l'ultimo censimento esisterebbero infatti ancora 1004 gorilla di montagna al mondo. Di questi, 604 vivono nel Parco Nazionale dei Virunga, che sconfina in tutte e tre le nazioni appartenenti alla regione dei Grandi Laghi, e 400 nel Parco Nazionale di Bwindi in Uganda. Lo studio condotto dalle autorità dei tre paesi spiega che l'aumento della popolazione è dovuto alle più efficaci politiche di conservazione messe in atto, a una migliore coordinazione e collaborazione tra i tre governi e al turismo maggiormente regolato. La specie naturalmente rimane a rischio a causa del bracconaggio dei gruppi armati che vivono in questa regione che da sempre è altamente instabile. Il prossimo pezzo è di Stanley Murphy, appunto rifacendosi a quello che dicevamo nell'introduzione della trasmissione. È un cantante di origine nigeriana che però ha inciso e ha avuto tutta la sua traiettoria musicale e artistica in Costa d'Avorio. Ha iniziato a lavorare e ha girato il continente africano con il Rego, il famoso cantante del Benin, di cui abbiamo anche di lui ascoltato i pezzi recentemente, e successivamente Okoye Seka Atanase lo ha ingaggiato, diciamo, per cantare e interpretare canzoni e parti in inglese, appunto dei propri pezzi, perché come sapete la Costa d'Avorio è francofona, e per appunto, mentre invece la Nigeria, di cui è originario Stanley Murphy, è anglofona. Durante la sua collaborazione con Okoye Seka Atanase, di cui appunto vi abbiamo fatto ascoltare il pezzo precedentemente, di cui abbiamo sottolineato la caratteristica, la sua provenienza etnica, appunto del popolo Hati, anche Stanley Murphy ha imparato la lingua Hati, che è appunto una lingua parlata da questo popolo in una zona abbastanza lontana da Abidjan. Ha successivamente prodotto vari album dal solista e ha avuto appunto un grosso seguito proprio nel pubblico di questa zona particolare della Costa d'Avorio, che è caratterizzata da non tanto dalle città ma soprattutto da una continua serie di cittadine, villaggi cittadine di medie e piccole dimensioni. E appunto, avendo suonato, collaborato per tanto tempo con Okoye Seka Atanase, ha continuato la sua carriera solista, però con uno stile musicale molto vicino a quello che appunto suonava insieme a Okoye. Chiaramente suonando, sia perché è una particolarità di questo suono di Okoye Seka Atanase, ma anche perché era suonando in questa regione che è caratterizzata da villaggi, da piccole città e via dicendo, e suonando in particolar modo nelle feste, diciamo, ha sempre di più dato al suo suono un senso proprio della festa, l'umore dei pezzi, diciamo, è proprio quello che caratterizza le feste. Di lui ci ascoltiamo A Caffè. Olivo, Aquaba, Thank you. mais c'est quoi le beau? À quel le beau m'a pas beau, mais non. À ta fait c'est quoi le beau? À quel le beau m'a pas beau? À vous ça, c'est beau. À vous ça, c'est bouillé, vous d'envoyer. À la vie, à tes collas, ça va, c'est une incroyable mot. À puis tu l'as dit, maman, nous comme moi, on doit les mouiller. Oui, bah, mon malheur. Ça va, c'est ma croyez-moi. A vous, ça, ça vous. A vous, ça, c'est vous, y'a vous, non, y'a. Copain, t'en es bien. Ça va, c'est ma croyez-moi. Pas de chèche, oh. Un copain, peu. Pas on y a quoi. Pas on y a. Pas pour t'en ton. Hey, pas pour l'en fiant. Pas pour y a quoi, oh. Y'a pas mon y'a cousin, y'a t'in bosse la mer. A nos y connaissent le papa, c'est que toi y'ma. A capé c'est pour le bain, a que l'hypopin quoi bon. Eh hypopin quoi bon, eh hypopin quoi bon, mais l'hypopin quoi bon. A capé c'est pour le bain, a que l'hypopin quoi bon. A vous ça c'est vous, a vous ça c'est vous, y'a qu'on d'a, mais l'on peut pas qu'on est. A pas fait ce qu'on a, ben appelé pour m'en pas bon. Y'a pas bon, y'a cousin. Et d'une gauche au lambert, papa, mais l'on peut bon. A pas fait ce qu'on a, ben appelé pour m'en pas bon. A non, si connaissez papa, c'est que toi y'ma, mais l'on peut bon. A pas fait ce qu'on a, ben appelé pour m'en pas bon. J'ai appris ton net. Mali internet il m'a comme mon badge. A café ce qu'on a bien que le beau pas. A mon florentin, pitié, on se met en même temps, bobo, quoi qu'il est. A café ce qu'on a bien que le beau pas. Beau pas, oh yeah. Beau pas, pas, pas, mais le bobo. In seguito alla flessione, alle grandi manifestazioni organizzate dalle, appunto, dalle organizzazioni di base in tutto il Sudafrica negli ultimi anni, il governo sudafricano probabilmente porterà avanti i piani di emendamento della Costituzione per consentire l'avvio del processo di espropriazione dei terreni di proprietà dei bianchi, tutto ciò senza compensazione. È quanto dichiarato dal presidente Cyril Ramaphosa in un discorso televisivo alla Nazione trasmesso alcuni giorni fa, e ha definito la riforma di un'importanza cruciale per l'economia sudafricana. Va considerato tra l'altro che c'è stato un avvicendamento al vertice dell'African National Congress, e non solo, l'avvicendamento al vertice dell'African National Congress significa anche un avvicendamento alla presidenza del Sudafrica, e appunto si è insediato Cyril Ramaphosa, che delle attuali leader dell'African National Congress è quello che è sempre stato, seppur timidamente chiaramente, più attento ai problemi sociali, e che è anche quello che meno burocratizzato e meno burocrate, tant'è che faceva parte del sindacato, il sindacato organizzava i lavoratori neri sudafricani durante gli anni dell'apartheid. E appunto questa riforma è sotto certi aspetti, anzi sotto tutti gli aspetti, una necessità per il governo sudafricano, proprio perché altrimenti, diciamo, avrebbe poca vita, ecco, avrebbe pochi mesi di vita, proprio perché ci sono continue proteste, continue manifestazioni perché si inizi finalmente questo processo di espropriazione dei terreni di proprietà dei bianchi, e oltretutto senza compensazione, che era uno dei punti principali di chi lottava contro l'apartheid durante gli anni 70-80. Il programma di riforma agraria sostenuto Cyril Ramaphosa garantirà un accesso equo alla terra e sbloccherà la crescita economica, portando al pieno utilizzo del maggior numero di terreni in Sudafrica e consentendo la partecipazione di milioni di sudafricani al lavoro e all'economia. Gli scorsi mesi hanno visto un crescere, appunto, come dicevamo precedentemente, del risentimento in una parte dell'opinione pubblica sudafricana proprio per via della lentezza del processo di riforma agricola. Nel paese si ritiene, tra l'altro, la minoranza bianca possegga una quantità di terreno fertile sproporzionata dopo più di due decenni dalla fine dell'apartheid. Tra l'altro va considerato anche che questi terreni non è che a suo tempo sono stati acquistati, erano terreni di proprietà comune, di cui gli attuali proprietari bianchi se ne sono impossessati, diciamo i progenitori degli attuali proprietari bianchi se ne sono impossessati con l'armi e con la forza, e di cui non ci sono mai stati un catasto nazionale di questi terreni. D'accanto loro, chiaramente, le lobby, la minoranza bianca, hanno già definito come potenzialmente catastrofico l'eventuale intervento di esproprio senza compensazione. Il prossimo pezzo, I Love Music. Questa traccia è composta da i Sumo Brothers, e cioè è composta da John Sumo, uno dei due membri del gruppo, appunto dei due fratelli, con altri 9 musicisti. È stato registrato in uno studio in Ghana con musicisti importanti di tutte le nazioni intorno, e cioè Amon Kotei al sassofono tenore, Eddie Gray al sax alto, Nana Azare alla tromba, Ismael Odai all'organo e clarinetto, Israel Anno alla batteria, Giorgia Jay alle congas. Alla chitarra l'altro fratello, Honoré de Sumo, strepitoso in questo pezzo, e Art Benin all'altra chitarra. Quindi ascoltiamocelo, I Love Music. Questo è uno dei pezzi, appunto, ritrovati in questi magazzini. Quindi I Love Music, i Sumo Brothers. Crying.

prendendo spunto da un articolo scritto da Antonella Sinopoli, che fa un elenco di libri scritti da donne africane o afrodiscendenti. Ve ne voglio magari dire, segnalare qualcuno che mi sembra più interessante. Cominciamo da una delle più conosciute scrittrici africane, cioè Chimamanda Ngozi Adichie, che in Metà di un sole giallo fa uno spaccato della guerra civile del Biafra e delle sue conseguenze. Lei ha scritto diversi libri e tutti belli. Ricordiamo anche, per esempio, L'ibisco viola. In questo romanzo il fanatismo religioso di un padre che regola la vita della comunità e dei membri della famiglia finisce per essere battuti dai segreti nel bel mezzo della guerra civile nigeriana, che emergono quando la protagonista verrà mandata a vivere in città. Un altro libro è Stay With Me, da poco uscito in italiano con titolo di Resta con me, debutto della nigeriana Ayo Bami Adebayo, dove le regole sociali e familiari imposti nel matrimonio poligamico diventano una gabbia che non lascia scampo. Particolarmente interessante invece è Aya de Yopugon, dell'ivoriana Marguerite Abue, perché Yopougon è un quartiere popolare di Abidjan, praticamente dove si svolgono la vita e le vicende dei due protagonisti, ma non è un libro, ma è una graphic novel, le cui illustrazioni sono di Clemente Ubreri. È un fumetto che è stampato da Gallimard, e ne è stato tratto anche un film di animazione con lo stesso titolo. Se cercate online potete vedere il trailer, da lì capite veramente quanto è carino. Continuiamo, per esempio, nel 77 c'è stata la prima pubblicazione della ghanese Ama Ata Aido, e cioè Our Sister Kijoy, o Reflection from a Black Head Squint. Era l'epoca in cui si cominciava a riflettere sull'impatto della cultura europea e sulle politiche dell'esilio. La produzione di questa scrittrice è molto ampia e si svolge in decenni di attività politica, femminismo e scrittura. Ha spesso affermato che il femminismo è un'ideologia e quindi, assai prima che lo dicesse Chimamanda, anche gli uomini possono e dovrebbero essere femministi. Una delle sorprese è la maliana Upil Shizala, che ha da poco pubblicato due libri di poesia e prosa, Soft Magic e Nectar. Lei si definisce storyteller, ma è molto di più. Usa le parole per guarire, per dare attenzione e per celebrare la donna nera. Saltando in un altro paese, citiamo Nervous Condition Otsitsi, Dangaremba, in Zimbabwe, dove si narrano ancora da un'altra prospettiva gli effetti del colonialismo e dove viene maturata la questione della colonized mind, mentalità acquisita e forzata da secoli di dominio straniero. Il lavoro risale al 1988 e ha molte parti biografiche relative alla vita della protagonista in quella che allora era la Rhodesia. Passando a Sudafrica e all'autrice femminista e accademica Phumla Dineo Gpola, consegniamo Rape, A South African Nightmare, perché per cercare di capire il motivo per cui questo paese è considerato la capitale dello stupro. Un saggio in realtà che parte dal processo del 2006 per violenza sessuale e fu poi scagionato a Jacob Zuma, allora presidente del Sudafrica, di Yemandeo Motoso, che ha radici nelle Barbados, Nigeria e Sudafrica. C'è un altro libro, The Woman Next Door, uscito in Italia di recente, La signora della porta accanto, che attraverso la storia di un'amicizia tra una donna bianca e una nera racconta praticamente le regole dettate dalla razza e come esse possono influire o cambiare o essere sfidate in modo da rafforzare i legami mentre scorrono 60 anni di vicende in Sudafrica. Se vi piace la fantascienza, non potete perdervi Who Fears That, che è uscito ultimamente anche in italiano, però non ricordo come è stato tradotto, della Ndedi Okafor, di origini nigeriane, in cui praticamente gli alieni atterrano in Nigeria. Ed è tutto sul discorso di a seconda delle fasce sociali e dei tipi di persone a cui abita, gli effetti che questa venuta aliena fa vedere. Lei praticamente spiega anche come funziona la società nigeriana, molto bellino. Il prossimo pezzo è di Nguyen Hang, anche in questo caso ha inciso Abidjan, ma camerunense, arrangiatore e compositore camerunense, è un brano prodotto nel 1980, appunto Abidjan, è tratto dal suo album Doti Gook. Il pezzo si intitola Walk. Yeah, she my friend. E vi ricordo che state ascoltando Radio Wombat su wombat.noblogs.org oppure sulle onde medie AM al 1359. Non scordatevelo, ascoltateci anche attraverso la radio. E vi ricordo anche che sul sito potete ascoltare tutti i podcast delle trasmissioni passate, di tutte le trasmissioni di Radio Wombat. E vi ricordo anche i social: Twitter Radio Wombat Fi, Uru, questa trasmissione ne ha uno anche particolare per seguire le notizie che succedono in Africa, le cose che succedono in Africa, quindi è uru-rw. E vi ricordo anche che potete scriverci e non ci pare vero, se ci viene detto qualcosa, scritto qualcosa, posta wombat@insiberia.net. Vi ricordo anche le repliche di Uru, che sono due, ed è, allora, la diretta, vabbè, questa che state ascoltando è il venerdì alle 21:30, la prima replica è la domenica alle 23, la seconda è il lunedì mattina alle 8:30. E siamo all'ultimo pezzo, il pezzo interpretato da Salè, anche in questo caso una traccia rinvenuta, un 45 giri rinvenuto in questi magazzini di Abidjan. Un pezzo si intitola Ameniwa, Assalé che interpreta appunto Ameniwa. Yes, sir. wale babia bo Yesu ene pumyo Aki na ambeu You're not coming around. At some point, that you're not crying. And then, this is about me. Questo era il nostro ultimo pezzo, chiudiamo qui la trasmissione. Ciao a tutte e tutte, vi aspettiamo alla prossima. Ciao ciao.